Matteo capitolo decimo. Poi, chiamati a sé i suoi dodici discepoli, diede loro autorità sopra gli spiriti immondi per scacciarli e per guarire qualunque malattia e qualunque infermità. Ora i nomi dei dodici apostoli sono questi: il primo Simone detto Pietro e Andrea suo fratello, Giacomo di Zebedeo e Giovanni suo fratello, Filippo e Bartolomeo, Tommaso e Matteo il pubblicano, Giacomo di Alfeo e Lebbeo soprannominato Taddeo, Simone il Canneo e Giuda Iscariota, quello che poi lo tradì. Questi sono i dodici che Gesù inviò dopo aver dato loro questi ordini: non andate tra i gentili e non entrate in alcuna città dei samaritani, ma andate piuttosto alle pecore perdute della casa di Israele. Andate e predicate dicendo: il regno dei cieli è vicino. Guarite gli infermi, mondate i lebbrosi, risuscitate morti, scacciate i demoni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Non fate provvista di oro, né di argento, né di denaro nelle vostre cinture, né di sacca da viaggio, né di due tuniche, né di calzari, né di bastone, perché l'operaio è degno del suo nutrimento. Ora, in qualunque città o villaggio entrate, informatevi se vi sia qualcuno degno, e lì rimanete fino alla vostra partenza. E quando entrate nella casa, datele il vostro saluto, e se quella è degna, venga la vostra pace su di essa, ma se non è degna, la vostra pace ritorni a voi. E se qualcuno non vi riceve, non ascolta le vostre parole, uscendo da quella casa o da quella città, scuotete la polvere dei vostri piedi. Vi dico in verità che nel giorno del giudizio il paese di Sodoma e di Gomorra sarà trattato con più tolleranza di quella città. Ecco, io vi mando come pecore in mezzo ai lupi, siate dunque prudenti come serpenti e semplici come colombe, ma guardatevi dagli uomini perché vi trascineranno davanti ai loro sinedri e vi flagelleranno nelle loro sinagoghe. E sarete condotti davanti a governatori e davanti ai re per causa mia, per dare testimonianza a loro e ai gentili. Quando essi vi metteranno nelle loro mani, non preoccupatevi di come parlerete o di che cosa dovrete dire, perché in quella stessa ora vi sarà dato ciò che dovrete dire. Poiché non sarete voi a parlare, ma lo Spirito del Padre vostro che parla in voi. Ora il fratello consegnerà a morte il fratello, e il padre e il figlio, e i figli insorgeranno contro i genitori e li faranno morire. E sarete odiati da tutti a causa del mio nome, ma chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. Ora, quando vi perseguiteranno in una città, fuggite in un'altra, perché in verità vi dico che non avrete finito di percorrere le città di Israele prima che venga il figliuolo dell'uomo. Il discepolo non è da più del maestro, né il servo da più del suo signore. Basta al discepolo di essere come il suo maestro e al servo come il suo padrone. Se hanno chiamato il padrone di casa Belzebù, quanto più chiameranno così quelli di casa sua. Non li temete dunque, poiché non c'è nulla di nascosto che non debba essere rivelato e nulla di segreto che non debba essere conosciuto. Quello che io vi dico nelle tenebre, ditelo nella luce, e ciò che udite, dettovi all'orecchio, predicatelo sui tetti. E non temete coloro che uccidono il corpo, ma che non possono uccidere l'anima. Temete piuttosto colui che può far perire l'anima e il corpo nella Geenna. Non si vendano forse due passeri per un soldo? Eppure neanche uno di loro cade a terra senza il volere del Padre vostro. ma quanto a voi perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non temete dunque, voi siete da più di molti passeri. Chiunque perciò mi riconoscerà davanti agli uomini, io pure lo riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli. Ma chiunque mi rinnegherà davanti agli uomini, io pure lo rinnegherò davanti al Padre mio che è nei cieli. Non pensate che io sia venuto a mettere pace sulla terra. Non sono venuto a mettervi la pace, ma la spada. Perché io sono venuto a mettere disaccordo fra figlio e padre, fra figlia e madre, fra nuora e suocera, e i nemici dell'uomo saranno quelli di casa sua. Chi ama padre o madre più di me non è degno di me, e chi ama il figlio o figlia più di me non è degno di me. E chi non prende la sua croce e non viene dietro a me non è degno di me. Chi avrà trovato la sua vita la perderà, ma chi avrà perduto la sua vita per causa mia la ritroverà. Chi riceve voi riceve me, e chi riceve me riceve colui che mi ha mandato. Chi riceve un profeta nel nome di un profeta riceverà un premio da profeta, e chi riceve un giusto nel nome di un giusto riceverà un premio da giusto. E chiunque darà da bere anche un solo bicchiere d'acqua fredda a uno di questi piccoli nel nome di un discepolo, in verità vi dico che egli non perderà affatto il suo premio.